Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Exalge, ben ritrovate, ben ritrovati. Buonasera, questa è Casa da Paes Radio Edit. Terza settimana, terza puntata di questa trasmissione che si occupa di jazz e di tutto quello che da esso poi è partito e deriva e viene fatto oggi. Musica soprattutto, il nome della trasmissione si ispira a una realtà milanese pensata perché la musica prendesse spazio e coinvolgesse le persone all'ascolto, quindi gli stessi principi guidano quest'ora. Io sono Nina Terruzzi e se volete mettervi in contatto con me potete farlo scrivendo una mail a casadapaes@gmail.com. Ci trovate anche sui social, come trovate sui social anche la realtà che ci ospita, ovvero Exalge, spazio milanese che esiste e resiste anche in questi mesi, come potete sentire su queste frequenze. Il primo brano che ascoltiamo stasera si chiama Vienna, è tratto da un album dal titolo El Regreso, alla cui guida c'è Juan Pastor Cinciano, un percussionista batterista peruviano ma trapiantato negli Stati Uniti da diversi anni e che 2 anni fa ha pubblicato questo album pieno di suoni e memorie. Partiamo da qui, Vienna. Thank you. Makaia McCraven ha rivisto l'ultimo lavoro di Jill Scott Heron, I'm New Here, e appunto l'ha riformulato dentro questo album uscito nel 2020, We're New Again, A Reimagining by Makaia McCraven. Da lì abbiamo ascoltato Me and the Devil. Mentre ci spostiamo in Italia con il Matt Trio di Marcello Allulli, Ermanno Baron e Francesco Diodati. Questo è Manta dal loro disco omonimo del 2014. Thank you. Dopo il Matt Trio, un brano breve ma intensissimo tratto da Green, disco di Hank Roberts con Mark Ducret alla chitarra e Jim Black alla batteria. Un disco che ormai ha i suoi anni, è del 2008, e questo era Prayer, il brano che abbiamo ascoltato si chiama così, ed è stata una traccia che ho ascoltato allo sfinimento un po' di anni fa. E subito dopo Broken Theme, un pezzo di Kamal Williams, un produttore, musicista inglese sulla cresta dell'onda di questi tempi, mentre ci rispostiamo in Italia con un altro trio. Alla guida c'è Marcella Carboni, un'arpista che ha pubblicato l'anno scorso un disco super interessante in cui veramente l'arpa diventa un sacco di cose e la si ascolta in un modo in cui probabilmente nessuno di noi avrebbe mai pensato di poterla percepire. Il disco infatti si chiama This Is Not an Harp e il brano che andiamo ad ascoltare è Mindful. Thank you. Thank you. Ghost Horse è un sestetto italiano, è un'espansione del trio Hobby Horse di Dan Kinzelman, Joe Raymer e Stefano Tamborrino, e a cui si aggiungono Glauco Benedetti, Filippo Vignato e Gabriel Baldacci. È uscito il loro primo disco nel 2019, si chiama Trojan, e noi abbiamo appunto ascoltato Hydraulic Empire. E rimaniamo in Italia con un altro trio, questa volta fatto tutto di sassofoni. Loro si chiamano Crisco 3, sono Francesco Bigoni, Piero Bittolobuone e Beppe Scardino. Cosa c'è lì non c'è è uscito all'inizio del lockdown dell'anno scorso, è un viaggio e dentro c'è una traccia che si chiama Questo cielo così bianco. Thank you. Da questo cielo così bianco dei Criscotré siamo passati a Nero di Emanuele Maniscalco. Anche questo disco, Vever, è stato prodotto durante i mesi difficilissimi della lockdown del 2020. Emanuele Maniscalco è un batterista e pianista di Brescia, che però ha un piede a Copenaghen, come lo ha anche Francesco Vigoni dei Criscotré, e insieme hanno preso parte all'album di Maria Faust, Sacrum Facere, Organ, un disco che mi ha devastata e che condivido con voi attraverso questo brano, Hold. Thank you. Arriviamo verso la fine di quest'ora e ci alleggeriamo un pochino con un brano di Neneja, un collettivo quasi completamente al femminile che viene dall'Inghilterra e che nel 2019 ha pubblicato il primo disco Bloom. La scena inglese è in questo momento una di quelle che più fortemente è riuscita a comunicare anche alle nuove generazioni la facilità con cui si può ascoltare questo genere musicale. E una delle prove è anche questo brano, Riverfest. Thank you. Riverfest delle Nerija e dal loro disco Bloom. Io vi ringrazio per l'ascolto, spero abbiate gradito. Vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 19 per Casa da Paese Radio Edition e vi consiglio vivamente di rimanere su queste frequenze perché la musica è bellissima. Buona serata, buon weekend, vi lascio con Bug del Claudio Fasoli e Sama di Quintet e dal disco Haiku Time.